best nigga in the morning. He gon' take keeping chief and just too long away. He see me in the evening, wanna catch all his feeling. Well, let me be the first to get my eye. Scrivo il mio destino giocando con le rime. La vita come un campo che brulica di mine. È come camminare scalzo per un prato con le spine. Ci attento a non sbagliare, che potresti scivolare. Sbagli a piglio e la roccia si potrebbe sbriciolare. Ma ti sto dicendo che se metti un po' di sentimento sarai sempre sopra tutti. Pensi che io stia mentendo? È una corsa contro il tempo, non esistono pit stop. In un mondo che ti ignora se tu tenti l'autostop. Se farti furbo, essere pessuto, se non ti fa lo scalpo come te l'ho seduto. È in disuso il calume, la pistola è pronta all'uso. E perdono, perdonami, mi scuso se ti faccio stare male. Voglio solo aprirti gli occhi, ma non per vedere il mare. Poi ci sono volte che vorresti scappare, ma la vela contro vento non può navigare. Devi usare remi su che fremi di arrivare. Scala per il paradiso, troppo cara da comprare. Se sono talento, nuova promessa, telecronista Fabio Caressa. Del rap italiano voi siete la feccia. Vivo la vita con amarezza. I'm getting this nigga in the morning. He gon' take keeping chief and just too long away. He see me in the evening, wanna catch all his feeling. Well, let me be the first to get my eye. Mi alzo la mattina, colazione, mangio beats. Scrivo un'altra rima, sulla traccia faccio tricks. Vivo con pensieri tra gli scleri di oggi e ieri. Il cervello sovraccaricato, senza fiato, cosa credi? Non ci riesco a vivere fingendo di star bene. Se sto male te lo dico, se stai male superiamo insieme tutto quanto. Punto sempre in alto, di incasso non giusto un altro. Io non mi vanto ma non perdo smalto. Non mi metto al tuo livello, sei troppo scarso. Devi essere scaltro, fanno presto qua a farti lo scalpo. Una rima chiusa, dopo c'è un'altra subito. Non dubito, non scrivo neanche un testo stupido. Resto sempre con lo stile unico, comunico ciò che posso presto e subito. Ci tolgono solo così com'è, se parli di rap ma lo sai cos'è. Gioco con le rime, sento questa merda nelle cuffie JBL. Sto ancora con Anti-Man come nel volume 1. Se hai sprecato la tua chance, non ti crede più nessuno. Di rime ne ho mare, puoi chiamarmi Nettuno. La vita è come un viaggio, se fosse l'Odissea io Ulisse, tu nessuno. I'm getting this nigga in the morning. He gon' take keeping chief and just too long away. He see me in the evening, wanna catch all his feeling. Well, let me be the first to get my eye. Il buongiorno si vede dal mattino, ma il sole cattivo e non sempre picchia su di me. Perché non lo so, ma fra so che succede pure a te. Mi alzo per sottiva, alzo perché sono vivo, sopra i quattro quarti sono me. Metto sono i vecchi, fate guardate lo specchio, le cinque ti alzi e prendi il tè. La fortuna è fuori dalla porta che aspetta, ma spesso non sento che bussa. Non mi pongo freni se mi lascio andare libero, sono come il proiettile della roulette russa. Sole sul cielo pure quando fuori nero beat pop il cuore pulsa. Cavalco questa vita certe volte con fatica, dopo giorni con la frusta. Metto il cuore in ogni traccia, rime come pugni in faccia. Vedi che ti prendo, non rallento sopra il tempo, frate ti consiglio scappa. Esprimo il mio di senso con la musica che viaggia. Io viaggio con lei, può chiamarmi sensei. Quando rap sono MJ che schiaccia. Porto sto suono in cui c'è del nuovo del rap italiano. Io sono lo sposo, corro e combatto, cerco riscatto. Io non vivo, oso. Mi incastro nel robo, vi schiaccio al suolo. Vi batto al volo, non vi consolo. Parlo di me, tipo autoritratto. Porto sto suono vigoroso.